voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Alberto Bertone, la sfida dell'acqua Sant'Anna di Vinatio, di Anna Marino. Noi siamo dei costruttori, no? Per cui con l'acqua abbiamo sempre tutti i giorni a che fare. Attraverso le costruzioni siamo riusciti a diventare soci di una società di acquedotti che distribuiva l'acqua, un mondo completamente diverso dall'acqua minerale. Poi non siamo riusciti ad acquisirla, per cui con una delusione abbiamo cercato di rimanere nel mondo dell'acqua e nel mondo dell'alimentare. Per cui ci siamo guardati un po' intorno, abbiamo cercato di acquisire una società di acque minerali e tutte le volte nella trattativa del prezzo non bastava mai. Cercavamo di acquisire un terreno nel torinese e mio padre, parlando con l'altra persona per cercare di rompere il ghiaccio sul prezzo, dice: ma mio figlio sta cercando un'acqua minerale, vuole entrare in questo mondo, e dice: ma c'è dell'acqua buona su Vinatio, ma perché non entrate in questo mondo dove ci sono già delle terme, per cui è già conosciuto a livello, diciamo, locale. E da imprenditori, e direi di vecchia maniera, soprattutto da ignoranti nel settore, siamo partiti senza sapere assolutamente niente. Abbiamo organizzato il weekend successivo e siamo andati a Vinatio, siamo andati a vedere questo territorio molto bello, incontaminato, dove c'è questa cascata che fa un salto di 20 metri, molto grande, in un contesto bellissimo dove ci sono solo, diciamo, animali selvatici, dove ci sono marmotte, dove ci sono mufloni, dove ci sono dei cervi e camosci. Ci ha fatto veramente scattare questa scintilla di dire: ma perché non portiamo quest'acqua sulla tavola degli italiani? Ecco come l'acqua è arrivata ad essere al centro della vita imprenditoriale di Alberto Bertone, titolare, presidente e amministratore delegato di Fonti di Vinatio S.p.A. Nasce a Torino il 16 agosto 1966. Laureato in scienze politiche con indirizzo economico, consegue un master in pianificazione del mercato immobiliare presso il Politecnico di Torino. Non è un caso. Già durante il periodo degli studi, infatti, Alberto Bertone collabora con il padre, Giuseppe, nella gestione delle attività di famiglia. Il gruppo Bertone opera infatti dalla fine degli anni 50 nel settore della progettazione e costruzione di edilizia residenziale e industriale. Ecco come Alberto Bertone ricorda la sua storia di famiglia. Mio padre è il primo imprenditore di famiglia, perché nasce da una famiglia abbastanza povera del Cuneese, per cui è lui il primo ceppo. Fin da piccolo non ha la possibilità di studiare, perché la famiglia non lo permette, e fa un po', diciamo, di tutti i mestieri che cerca di imparare durante la propria vita. Cerca di fare il panettiere, ma la sua missione era l'imprenditore. Infatti riesce a comprare la panetteria dal suo padrone, poi compra tutto il primo stabile, poi lui lavorava di notte e di giorno andava a cercare dei terreni, però si rendeva conto che doveva studiare, per cui cercava di studiare tra un'infornata all'altra, studiava il manuale del geometra e aveva proprio nel sangue questa voglia imprenditoriale, e per cui va a cercare dei terreni e, una volta acquisiti questi terreni, cerca di elaborare questi progetti. Poi bisognava iniziare a costruirlo, parliamo degli anni inizio anni 60, fine 50 anni 60, si mette insieme con un muratore e un elettricista, e lui si occupa della parte di acquisizione e di vendita degli alloggi, mentre all'inizio tiene ancora di notte questa panetteria, perché logicamente doveva mantenersi. Cominciano a fare le prime case, va bene, per cui acquisiscono altri terreni, fanno le prime case, il boom economico di quei momenti logicamente lo permetteva, nasceva la grossa industria della Fiat, per cui c'era la necessità di dare le case a persone che arrivavano da lontano ma senza soldi. L'intuizione di mio padre era quella proprio di fare numeri di case, per cui costruisce veri e propri paesi nell'interland di Torino, un po' in tutte le prime, seconde e terza cintura, costruito un po' dappertutto, in una zona del sud di Torino, diciamo che ha fatto circa 10.000 case. E l'idea era proprio di scommettere con le persone, cioè di capire quelle persone che avevano voglia di lavorare anche se non avevano i soldi e potevano accedere al credito, perché era un altro mondo rispetto al mondo attuale, per cui credeva a loro. E lui mi ha sempre detto: non ho mai perso 1.000 lire, ma non perché avevo dei controlli, non perché niente, perché scommettevo sulle persone, e scommettevo che questa persona aveva voglia di lavorare, e gli dicevo: non preoccuparti, comprati l'alloggio anche più grande e poi quando avrai i soldi me li darai. Così Alberto Bertone ricorda l'ingresso in azienda. Io avevo una grande stima di mio padre. Quando hai la stima di tuo padre diventi un po' in concorrenza, no? Per cui mi sono iscritto a un master Io sottolineo che non sono mai stato un genio a scuola, per cui mi sono iscritto a questo master per avere un qualcosa di più, per avere la possibilità di avere un lavoro per conto mio, per poi al massimo mettermi in discussione e ritornare con mio padre, dove cercare di far valere quello che erano le mie caratteristiche di imprenditore. Oltre alla gestione diretta di alcune delle società che fanno capo al gruppo, Alberto Bertone intraprende nel 1996 lo startup e il lancio sul mercato del brand Acqua Sant'Anna di Vinadio, che in pochi anni scala il mercato e diventa leader assoluto nazionale, partendo da semplici e pratici passi e da una grande umiltà che Alberto Bertone sottolinea. Grazie alla fortuna, la possibilità di partire completamente da zero, partire da delle montagne, capire che c'era dell'acqua buona in montagna dove la bevevano solo gli animali selvatici, o altrimenti la pastorizia a 2200 metri, a 1500 metri, e siamo partiti così da ignoranti. L'attenzione per l'innovazione continua e la preferenza per una razionalizzazione tecnologica del ciclo produttivo sono alla base di questo grande successo di cui è protagonista il marchio Sant'Anna, una sua creazione al 100%. E l'acqua Sant'Anna è infatti l'unico marchio leader nel settore delle acque minerali italiano ad essere proprietà di un'azienda familiare, in un mercato in cui dominano i grandi gruppi. Ma Alberto Bertone spiega perché non è così scontato partire da una fonte e arrivare a un'impresa. E a differenza di quello che normalmente leggo sui giornali, che le fonti sono l'oro blu del futuro, è difficilissimo oggi come oggi riuscire a portare del reddito imbottigliando dell'acqua minerale. Alla base dell'operazione c'è la profonda convinzione delle alte potenzialità dell'acqua che sgorga dalle montagne che sovrastano Vinadio, nel cuore delle Alpi Marittime. Alcuni documenti storici, risalenti al XVI secolo, ne esaltavano già le qualità terapeutiche e disintossicanti. Inoltre, Sant'Anna di Vinadio è il santuario più alto d'Europa, dove nei secoli la popolazione piemontese, e non solo, si è recata in pellegrinaggio a piedi per chiedere le grazie e per rivolgere preghiere. Anche Alberto Bertone ha fatto il cammino per fede e prima di intraprendere l'impresa, percorrendo ben 18 chilometri a piedi. Vinadio, storicamente, già al tempo dei Romani c'erano delle terme di acqua calda, e per cui venivano sfruttate, poi sono state sfruttate dai Savoia, che hanno fatto un insediamento termale molto, molto importante. Però noi prendiamo delle sorgenti di acqua fredda, cioè il bello è che attaccato a noi c'è dell'acqua naturale a 80 gradi, che viene su dal despacchiatore della terra, per cui fregando sulle rocce si scalda e ha delle caratteristiche famose nel tempo per come fanghi, come acqua solforosa, e tuttora sono queste terme sono aperte e funzionano molto bene. E invece noi abbiamo cercato invece delle sorgenti di acqua fredda, delle sorgenti che scaturiscono da delle rocce granitiche, per cui hanno la caratteristica di essere tra le più acque più leggere al mondo. Abbiamo avuto subito l'autorizzazione di acqua per bambini proprio per le caratteristiche qualitative dell'acqua, che è una cosa importante, per cui siamo entrati dalle famiglie con la cosa più cara che abbiamo, cioè il bambino, e poi abbiamo visto che potevamo assumere anche noi la stessa acqua che beveva il nostro figlio. E soprattutto per me una delle cose fondamentali è che non abbiamo nitrati. Nitrati sono un inquinamento alla sorgente e non abbiamo cloruri, che è la cosa che fa, diciamo, più male in assoluto al nostro fisico. La ricetta per il passaggio generazionale nelle imprese di famiglia c'è, secondo Alberto Bertone, e il suo caso ne è un esempio. Io andavo a una scuola così a Carlo Alberto Moncalieri, dove è una scuola di figli di imprenditori, per cui nel tempo ho visto i vari imprenditori, imprenditori che hanno continuato, diciamo, l'attività di famiglia, e tanti imprenditori, diciamo, che l'attività è andata sparendo. Per cui io penso che come figli bisogna seguirli molto e bisogna cercare di capire se quello che vorresti far fare al figlio è questo tipo di lavoro, e portarlo fin da piccolo a innamorarsi del proprio lavoro. Bisogna essere innamorati del proprio lavoro per cercare di convincere i propri figli. Nel mio caso, fin da piccolo, ma fin dall'elementare, mio padre mi ha sempre portato in cantiere nel sabato a dialogare, a vivere con gli operai, a scherzare con gli operai, a portargli queste piastrelle, o mi insegnava come si incollava una piastrella, o guidare la gru. La scuola è il padre, no? La scuola di vita per un imprenditore è importante. E secondo Alberto Bertone, mescolare vita e lavoro è un'arte che si apprende e stimola le idee. È molto difficile, è la cosa più difficile in assoluto. Devi essere in equilibrio con te stesso, per cui con la tua famiglia, con te stesso, perché se non hai una famiglia alle spalle è difficile che fai l'imprenditore, soprattutto sul lungo periodo. E il bravo imprenditore è quello che cresce sempre, lentamente, ma cresce sempre, non quello che ha i picchi. Per me e quella è la cosa fondamentale. Se nei primi anni di attività Fonti di Vinadio S.P.A. vendeva tante bottiglie quanti sono gli italiani, oggi le bottiglie vendute in un anno sono tante quanti sono gli abitanti d'Europa. Oggi l'Acqua Sant'Anna è leader di mercato. 170 milioni di euro di fatturato e 700 milioni di bottiglie vendute nel 2008. 60.000 metri quadrati di stabilimento, recentemente rinnovato rispettando i principi della bioedilizia. 400 chilometri di tubazioni in acciaio inox. 310.000 bottiglie prodotte ogni ora. Gestione magazzino automatizzata con 28 veicoli a guida laser. Logistica su rotaia in tutta Italia. Sono questi oggi i numeri dell'azienda cuneese. Rimasta salda, dice Alberto Bertone, in un momento di crisi che ha fatto tremare le gambe ad altre imprese e soprattutto in un settore, quello dell'acqua in bottiglia, che è particolarmente affollato. Siamo un'azienda completamente diversa. Ogni anno cresciamo di una percentuale molto elevata. Anche quest'anno siamo riusciti a, diciamo, crescere di circa tra un 10 e un 15%. Avendo paura di questa crisi, abbiamo cercato di investire in robotizzazione, per cui ridurre i costi, diventare più efficienti, non aspettare la crisi per diventare efficienti, ma robotizzare. Robotizzare vuol dire avere un costo iniziale della fabbrica molto più basso rispetto alla concorrenza. Questo ti permette di avere dei margini da investire nel prodotto, dei margini da investire in altri campi, per cui riuscire ad attaccare nei periodi di crisi. Fonti di Vinadio S.P.A. è apripista in Europa anche nella sperimentazione di una speciale bottiglia di bioplastica derivata al 100% dalla fermentazione degli zuccheri delle piante. Non utilizza neanche una goccia di petrolio, la nuova Sant'Anna Bio Bottle, la prima bottiglia di acqua minerale con packaging 100% vegetale. Una speciale bottiglia prodotta con la bioplastica Ingeo, che si ricava dalle piante anziché dal petrolio. L'innovazione sostenibile, secondo Alberto Bertone, si fa con i fatti e non con le parole. Bisogna cercare di fare fuoco col proprio legno, no? E là era inutile portare delle ricercatori che vivessero in alta montagna per ricercare. Noi abbiamo scelto quelle aziende che tecnologicamente nei loro paesi, nei loro settori, erano tecnologicamente più avanzati, collaborando con tutti i politecnici d'Italia. Ci siamo detti che prima o poi bisogna trovare un'alternativa alla plastica, anche se ancora oggi è un prodotto stupendo. Così per caso mi era stato proposto che in America stavano facendo questi piatti che una volta lavati non bisognava fare più la differenziata, ma in giro di 80 giorni si biodegradavano. E ho detto: ma perché non studiamo di fare una bottiglia? Una settimana dopo abbiamo fatto qualcosa di concreto, ho preso un biglietto, sono andato in America, abbiamo spiegato questo tipo di progetto e con questa multinazionale americana ci hanno dato la possibilità di studiare questo tipo di bottiglia. Oggi dal punto di vista visivo non cambia nulla rispetto alla plastica e alla caratteristica di mantenere il prodotto simile al vetro, e una volta consumata non dobbiamo fare la separazione della plastica ma buttarlo nell'organico, e in giro di 59 giorni noi abbiamo tutti i test, ma entro 80 giorni questo tipo di prodotto scompare. Non perché si scioglie in acqua, nelle discariche di tipo industriale ci sono tanti microrganismi che si mangiano questo tipo di contenitore. L'acqua come elemento naturale, come proteggerla e preservarla? Per Alberto Bertone non è solo impresa. È vita, perché è l'unico prodotto che nessuno di noi può farne a meno. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.